Ricordate, il numero 21 ha pochi divisori. Provate con le coppie che lo compongono. Se il prodotto deve essere meno 21, significa che uno dei due numeri deve essere negativo. Ora chiedetevi, quale segno devono avere questi due numeri per far sì che la loro somma sia meno 4?